Prima edizione. Con i due computer, Macintosh e Mitsubishi. Ho capito. Che cosa si sta verificando stasera adesso che vengono inquadrate queste splendide ragazze del Cacao Meravigliao? Abbiamo di fronte, ecco, sale l'indice? Sale l'indice. A quanti milioni stiamo? 11. E lo share? Oh, 12. Un buon compleanno questa mattina ad aprire prima edizione con la nostra copertina. Compie 75 anni l'artista che ha cambiato l'intrattenimento dalla radio alla TV. Lo avrete riconosciuto. Un buon compleanno a Renzo Arbore. Eccezionale. Spiriti bianchi e spiriti neri, noi evochiamo l'anima di Dante Alighieri. Spiriti neri e spiriti bianchi, noi evochiamo l'anima di Alighieri Dante. Avanti fu. E allora ecco Lorenzo Arbore, buon compleanno, e tra poco invece le prime pagine dei giornali. Ancora buona giornata, allora buon lunedì da Anna Migliorati. 25 giugno, l'Italia che vince, così l'apertura oggi della Gazzetta dello Sport. Naturalmente non poteva non cominciare da qui la nostra carrellata di prime pagine di questa mattina con prima edizione. L'Italia che vince, andiamo Germania a noi due, così la Gazzetta dello Sport. Dominata l'Inghilterra, colpiti due pali e ai rigori arriva la vittoria 4-2. Giovedì semifinale coi tedeschi. Corriere della Sera, la sofferenza, le emozioni in presa di una bella Italia. La Stampa, il rigore che fa bene all'Italia. Il Messaggero, grande Italia, battuta l'Inghilterra ai rigori. La Repubblica, l'ultimo rigore è dell'Italia più bella. E poi ancora un'altra carrellata questa mattina, il Giorno Quotidiano Nazionale, urlo azzurro, secolo XIX, i leoni siamo noi. Il Giornale, l'Italia che va, l'unico rigore che ci piace, facciamo fuori l'Inghilterra, cara Merkel, ci vediamo in finale. Questi i titoli dopo i rigori davvero al Cardio Parma ieri sera, e già si vede il prossimo appuntamento che cadrà proprio nel cuore del vertice anche per l'euro, e quindi ecco che ricomincia, come c'è già stato più volte in questi europei, l'intreccio, dicevamo anche in apertura di prima edizione, tra calcio e politica. Ma leggiamo i commenti, qualche spizzico qua e là, poi come sempre vi ricordo c'è Alessandro Milano alle 7:20, la Gazzetta dello Sport, la firma è quella di Andrea Monti, la nazionale più bella, la più bella nazionale dei tempi del Mondiale di Germania, conquista la semifinale di Euro 2012 ai calci di rigore, avrebbe strameritato di chiuderla prima, ma la sofferenza rende ancora più bella la notizia di questa straordinaria domenica, c'è un'Italia che va, vince col cuore, con classe e con grinta, così Andrea Monti. Il Corriere della Sera, eccola, infatti, scrive Aldo Cazzullo, ora tocca la Merkel, fuori Cameron, ora tocca la Merkel, se la nazionale assomiglia al paese che rappresenta, l'Italia nella battaglia d'Europa è messa benissimo, ovviamente battaglia d'Europa che è anche battaglia dell'euro, come vi dicevo, già cominciano a intrecciarsi i commenti sull'una e l'altra questione, tant'è che anche il commento della Stampa al titolo, che già dice molto, ed è la rivincita dei pigs, Portogallo, Italia, Grecia e Spagna, insomma di chi sul fronte economico non sta così bene, ovviamente attenzione a non fare come la partita della Grecia e enfatizzare troppo, ma i commenti, diciamolo, sono in questo senso. Più calcistico sulla Repubblica il commento di Gianni Mura, padroni del campo, grande partita, Italia avanti ai rigori, poteva chiudere prima, la si può rimproverare solo di averci messo tanto tempo, ma non è il caso, bravo Buffon che ha parato un rigore, bravo Diamanti che ha realizzato quello decisivo, l'ultimo rigore è dell'Italia più bella, così la Repubblica. Allora lasciamo le notizie calcistiche, l'esultanza calcistica, invece per le altre notizie che trovate oggi sulle prime pagine dei quotidiani. L'altra notizia che domina è la notizia che vi abbiamo dato anche noi in GR24 di carattere internazionale, vale a dire gli occhi puntati sul futuro dell'Egitto, perché dopo giorni di attesa è arrivata la designazione, è stato incoronato il nuovo presidente, il primo eletto democraticamente dopo Mubarak, che è il candidato dei fratelli musulmani, Mohamed Morsi, ha tenuto ieri sera il più grande il suo primo discorso, ma c'è naturalmente tensione attesa sul fronte internazionale per vedere come si comporterà. Allora, vittoria storica dei musulmani, in taglio centrale ad esempio per il Corriere della Sera, in Egitto proclamato presidente, la prima volta in un'elezione democratica, tradimento per i laici, ma prevarrà il pragmatismo, è il commento che trovate su il Corriere della Sera. E poi ancora La Stampa, questo dedica l'apertura: svolta in Egitto, vincono i fratelli musulmani, la rivoluzione continua, evitato lo scontro frontale, così titola La Stampa, che ricorda anche nel titolo però la notizia di queste ore, vale a dire i venti di guerra, forse un po' troppo, ma insomma questo è il clima che si respira tra Siria e Turchia per l'abbattimento di un jet di Ankara. La Siria, Damasco cerca di tenere bassi i toni, ma tant'è, domani si riunirà la NATO per cercare di capire che succede. Egitto, svolta musulmana al taglio centrale anche per il Messaggero, anche qui tensione nel paese, l'ombra dei militari sul dopo Mubarak, e ancora anche per la Repubblica, in Egitto vincono i fratelli musulmani e tregua con i militari. Il presidente dimezzato, scrive però già il commento di Bernardo Valli. Questa è la notizia internazionale che sicuramente è maggiormente sotto i riflettori, insieme, dicevamo, alla tensione tra Turchia e Siria in queste ore. E poi c'è tutta la questione invece ancora del rigore, della stretta sui conti. Allora ecco, anche questo in grande evidenza sui quotidiani, decide di aprirci ancora la Repubblica, che per la crescita anticipa il piano città. Così, secondo il quotidiano La Repubblica, ci sarebbero 2 miliardi per i capoluoghi e progetti urbanistici previsti dal decreto sviluppo per creare 100.000 posti di lavoro, un piano crescita, queste le anticipazioni che trovate questa mattina sul quotidiano La Repubblica, un piano di città, dicevamo, preparato dal governo per la crescita dei centri italiani, si va dal porto di Napoli e quartieri riqualificati a Bologna alla metro per Genova, e sul piatto ci sarebbero già i fondi, si parla di 2 miliardi e, come dicevamo, 100.000 posti di lavoro. Nel frattempo però attenzione in Europa, dice ancora La Repubblica, perché arriva il nuovo allarme per la speculazione delle banche e lo stop della Germania alle richieste di Atene, come abbiamo sentito anche in GR24. Ma la vera novità, secondo La Repubblica, appunto, sarebbe questo piano per le città, che porterebbe nuovi investimenti e nuovi posti di lavoro. Vi aggiungo altri progetti: un mega parcheggio per far decollare il teatro del Maggio Fiorentino per quanto riguarda Firenze, e poi ancora a Roma la valorizzazione di Pietralarva, il sistema direzionale orientale, poi dicevamo appunto il porto di Genova, e ancora invece gli alloggi sociali, scuole, centro culturale a Bologna, il porto anche a Napoli. Insomma, il governo sarebbe pronto a ripartire dalla riqualificazione delle città per cercare nuovi posti di lavoro, così almeno scrive La Repubblica. Il Sole 24 Ore invece punta l'attenzione su un'altra novità che ci sarebbe in arrivo, vale a dire la stretta per il welfare, stretta per il welfare che non sarebbe solo a parole, ma attraverso uno strumento preciso. In arrivo, infatti, scrive Il Sole 24 Ore, ci sarebbe un decreto che modifica i criteri del calcolo dell'ISEE. In sostanza, quell'indicatore della ricchezza delle famiglie che serve per accedere ai servizi sociali. Naturalmente, più stretti i criteri, meno possibilità di accesso alle agevolazioni. L'ISEE serve ad esempio per gli asili nido, serve per le mense scolastiche, ma serve anche per la fornitura gratuita dei libri di testo, serve per l'assegno per i nuclei familiari, serve per il cosiddetto bonus elettrico, serve per le borse di studio. Quindi andrebbe ad incidere direttamente, stretta per welfare, così scrive oggi il Sole 24 Ore. Altra stretta in arrivo, in questo caso sul Messaggero, come vedete si prendono in esame temi diversi questa mattina sui quotidiani per quanto riguarda il rigore nei conti. Il Messaggero l'attenzione lo punta invece sull'INPS, il super INPS per la verità, ecco il piano anche qui per ridurre i costi. Secondo il Messaggero sarebbe già pronta la nuova struttura che nascerebbe dalla accorpamento di tre enti previdenziali, INPS, INPDAP ed EMPALS, un colosso che dovrà gestire un bilancio tra i 500 e 700 miliardi di euro, scrive il Messaggero. Il documento è pronto, l'obiettivo anche qui è quello di ridurre i costi di funzionamento di almeno 20 milioni di euro già nel 2012 e 50 nel 2013, 100 a decorrere dal 2014. Testo questo già pronto e che secondo il Messaggero potrebbe arrivare addirittura d'arrivo già questa settimana. Tagli, novità per mettere a punto i conti, ma che succede invece per l'euro? Allora, taglio centrale del Corriere della Sera, l'attenzione la punta invece sull'euro e sulla Germania. La Germania adesso ha paura, così scrive il Corriere della Sera, senza euro anche noi più poveri. È uno studio questo del Ministero delle Finanze, ma non del Ministero delle Finanze italiano, spagnolo o greco, bensì del Ministero delle Finanze tedesco. Se la moneta unica dovesse crollare, il futuro economico della Germania e di tutta l'eurozona diventerebbe un vero incubo, con disoccupazione anche a due cifre e una contrazione dell'economia. I disoccupati salirebbero a 5 milioni e a tracciare i dettagli di questo scenario è uno studio dei tecnici del Ministero delle Finanze tedesco. La Germania adesso ha paura, così il Corriere della Sera. Ecco allora questi i temi principali sulle prime pagine dei quotidiani, questa è la carrellata, 6:25 minuti 30 secondi, abbiamo ancora tempo almeno per qualche curiosità. E allora restiamo ancora sul Corriere della Sera per una rivoluzione che si annuncia in una città italiana, è Catania. Che succede? Addio alle lampadine, luci high tech per Catania, strade illuminate esclusivamente dai LED. In 9 anni il comune, risparmiando il 40% dell'energia, ripagherà il rinnovo degli impianti. Questo la rivoluzione LED che si annuncia per Catania. Sulle Dolomiti un'altra rivoluzione per chi magari sta già pensando alle vacanze. In bici sulle Dolomiti con funivie ski pass, che succede? Succede che per la prima volta gli impianti di risalita saranno aperti anche alle due ruote, al posto dello ski pass il bike pass. Le funivie destinate ad un'attività ridotta troveranno una nuova funzione anche d'estate. Ecco la nuova frontiera delle vacanze sulle Dolomiti, così sulla prima pagina del Corriere della Sera. E allora, parlando di vacanze, io vi segnalo anche un inserto invece che oggi trovate su il Sole 24 Ore: le vacanze low cost, istruzioni per trovare la convenienza. Il viaggio con lo sconto parte dal Maus. Come fare? Prenotare online per risparmiare. Se qualche suggerimento lo vorrete, le guide del Sole 24 Ore, vacanze low cost, quest'oggi in edicola. Ancora un paio di segnalazioni dal taglio basso della Repubblica, abbiamo ancora qualche secondo. Allora, California, foie gras vietato, le oche soffrono troppo, ecco che succede. Anche questa una storia invece raccontata dalla Repubblica. Ci sono voluti 7 anni e mezzo di battaglie, proteste, marce contro marce, appelli contro appelli, tutto questo per cosa? Per approvare questa nuova legge, la legge che l'allora governatore Arnold Schwarzenegger firmò nel 2004, ora entrerà in vigore California. Non si potrà più produrre foie gras vietato perché le oche soffrono troppo. Anche questo sulle prime pagine dei quotidiani di quest'oggi. Come sempre, allora, vi ricordo ancora Alessandro Milan. Per prima edizione invece i giornali li lasciamo qui, torniamo all'attualità di queste ore tra pochissimo, a cominciare da GR24. 6:37 minuti, ancora buona giornata da Anna Migliorati, seconda parte di prima edizione. Allora torniamo in diretta e vabbè, già vi anticipo che il concerto di cui vi accennava Daniele Biacchesi, domani mattina magari vedremo di farvelo sentire, di raccontarvi già dalle prime ore del mattino come sarà andato. Nel frattempo però oggi parliamo d'altro, perché già vi anticipo che prende il via una nuova iniziativa di Radio 24, la calda estate dell'euro, per parlare di quale sia lo stato di salute, quale il futuro della moneta unica in una settimana davvero cruciale. L'abbiamo ripetuto più di una volta, giovedì e venerdì ci sarà il vertice europeo, definito davvero l'ultima spiaggia per salvare l'euro. E allora oggi prima puntata della calda estate dell'euro, la troverete nei nostri GR più avanti alle 7 e alle 8, poi Radio Day con appuntamenti nel corso di tutta la giornata, puntata speciale anche per Salvadanaio con Deborah Rosciani. Un'anticipazione però vogliamo proporvela già subito. l'estate calda dell'euro. Questa è la sigla che sentirete oggi a Radio 24 nel corso della giornata per capire qual è lo stato di salute dell'euro. Tra le ultime novità c'è quella che la Banca Centrale Europea ha annunciato venerdì, che allenterà le condizioni ad esempio per i prestiti alle banche dell'Eurozona per continuare a sostenere l'economia. Si allenterà allora il cosiddetto credit crunch, perché anche questo è uno degli indicatori ad esempio di come sta l'euro. Io saluto Gabriele Del Monte, vice direttore generale Banca Carige, buongiorno. Buongiorno a lei. So che in autostrada, spero che sia tranquillo in questo momento. Tranquillo e parcheggiato, sì. E parcheggiato, benissimo, 6:38 minuti. Allora, cominciamo, dicevamo, anche questo è un indicatore dello stato di salute dell'euro. Si allenterà il credit crunch, secondo lei, ci sono queste prospettive? Guardi, sicuramente il sistema bancario europeo, in particolare quello dei paesi più deboli, sta affrontando veramente un momento difficile, che è legato principalmente alla perdita di credibilità dell'Eurozona. Nell'attuale situazione, guardi, è sempre più difficile per le banche, in particolare italiane, raccogliere provviste sui mercati internazionali, che di fatto sono bloccati da quasi 14 mesi. Questo è un dato veramente importante. E quindi appunto importante che dopo le aste che BCE ha effettuato a dicembre e febbraio, che hanno dato grande sostegno al sistema bancario, prenda nuovi provvedimenti volti ad offrire l'ampliamento delle tipologie di collaterali accettati e quindi nuova liquidità al sistema bancario. Ecco, non dimentichiamo che la liquidità messa a disposizione con le aste di dicembre e di febbraio scorso di fatto erano finalizzate a coprire le scadenze dei bond che le banche avevano in scadenza nel corso del 2012. Quindi questa politica di apertura consentirà alle banche di continuare a erogare con regolarità il credito, evitando così i rischi di una stretta creditizia che potrebbe essere veramente avere effetti dirompenti nei confronti di un'economia già messa a dura prova dalla crisi. Senta, qual è lo stato di salute dell'euro se dovesse fare una previsione ad oggi? Ma dobbiamo essere sicuramente positivi e pensare che l'euro ha delle prospettive importanti di tenuta, perché non può esistere un'Europa senza l'euro e un'Europa unita così com'è. Ecco, perché se noi pensiamo agli Stati Uniti, nessuno penserebbe mai che uno Stato possa uscire dall'Unione, così deve essere per l'Europa. Grazie allora Gabriele Del Monte, vice direttore generale Banca Carige, grazie per essere stato con noi. Grazie a lei, buona giornata. Buona giornata, buon viaggio ancora. Solo un piccolo assaggio, la calda estate dell'euro, gli altri appuntamenti vi dicevo in giornata, nei giornali radio delle 7 e delle 8 e poi per tutta la settimana, per arrivare sapendo tutto quel che può succedere, qual è lo stato di salute dell'euro ai vertici di giovedì e venerdì a Bruxelles. Intanto però giovedì 28 ci sarà davvero sfida, e non solo per il futuro dell'euro, tra Germania e Italia. Perché, guarda caso, proprio nel cuore del vertice europeo per l'euro, il 28, ci sarà anche la sfida sui campi da calcio agli europei tra quella che è la visione italiana e quella che è la visione tedesca dell'Europa. L'Italia ha battuto ieri sera l'Inghilterra 4-2 ai rigori a Kiev, si è qualificata per le semifinali. Giovedì prossimo a Varsavia incontrerà appunto i tedeschi, proprio mentre sarà il tempo del vertice. Allora, ancora una volta una sfida tra politica e pallone per questi europei. Prima però restiamo ancora ieri sera, gli azzurri, con gli azzurri che hanno vinto ai rigori, e così Prandelli. Abbiamo giocato una grande partita e avremmo meritato di vincere, e sono stati non bravi di più contro una grande squadra, abbiamo avuto pazienza, abbiamo creato occasioni e poi quando sei ai rigori ovviamente ci vuole un pizzo di fortuna, bravura, quindi bravi, bravi. Stasera abbiamo giocato col cuore, col carattere, ma con le idee, abbiamo avuto un'idea di gioco secondo me straordinaria contro una squadra difficile da affrontare e quindi siamo soddisfatti proprio per questo. Abbiamo secondo me giocato bene, ma siamo stati bravi a non far ripartire questa squadra. A un certo punto loro hanno cercato solo lanci lunghi per le deviazioni, ma anche lì abbiamo dato buone coperture. Una squadra secondo me che meritava di vincere. che meritava di vincere, d'accordo il nostro Dario Ceccarelli, buongiorno. Sì, buongiorno Anna, sì, d'accordissimo, finalmente c'è stato un happy end, perché per come si era messa, noi come tutti ci eravamo un po' spaventati, perché l'Italia meritava, era talmente evidente che meritava di vincere, ma proprio in questi casi in genere il genio del calcio ci mette la sua zampetta e si rischia sempre poi che ai rigori vada male. Invece gli italiani, devo dire che sono stati bravi anche ai rigori, perché insomma, a parte lo sbaglio di Montolivo, il resto è stato bravo Balotelli, che non ha sbagliato il primo, Diamanti ha chiuso bene, Buffon ha parato il suo rigore, che, e poi decisivo credo sia stato Pirlo, perché con quel cucchiaio lì, con quello sberleffo proprio, non si parla, che è la parola del giorno, diciamolo, cucchiaio. Beh, ci vuole coraggio in quel momento lì a fare un cucchiaio, possiamo dire quella che sarà la parola del giorno oggi. Ufficialmente sì, l'Italia ha fatto cucchiaio, ecco, più che ha fatto non so se è una bella immagine. Beh, a volte servono parole chiave, diciamo, per andare avanti. Devo dire che lì ha avuto il coraggio di, in un momento di grandissima tensione, a fare quella cosa che modifica il corso di una partita, secondo me, e quindi in questo senso è stato un grande trascinatore insieme a Buffon, che era un po' l'anima, così, anche se è dovuto intervenire credo solo un paio di volte, però comunque molte emozioni. A volte è più bello vincere così, perché tutto sommato più si soffre in questi casi, e più, anche se questi attaccanti, Balotelli, Cassano, De Rossi, avrebbero dovuto chiudere un po' prima, ecco, però insomma non si può chiedere tutto. Oggi i giornali scrivono che non si vedeva una nazionale così dai mondiali in Germania, esagerazione o... Beh, dal punto di vista della personalità, della determinazione, della consapevolezza dei propri mezzi, sì, forse un po' di imprecisione in più, ecco, rispetto, però direi che è in grande crescita, e credo che i tedeschi comincino a preoccuparsi, perché in genere non gli va mai molto bene nelle semifinali o nelle finali, no? Con gli italiani, per cui credo che la Merkel ha un altro motivo per cui preoccuparsi. E sicuramente il 28 vedremo, magari cambierà ancora una volta anche l'agenda del vertice europeo, come è stato con la Grecia, perché li vediamo Monti e la Merkel. Esatto, però per la Merkel forse sarà meno tranquilla. Ora tocca alla Merkel, scrive anche Aldo Cazzulla, ad esempio, sul Corriere della Sera: se la nazionale assomiglia al paese che rappresenta l'Italia nella battaglia d'Europa, è messa benissimo. Non sappiamo se andrà così, ma di sicuro... Bene, buon cucchiaio alla posta. Buon cucchiaio, grazie. Allora, a Dario Ceccarelli. Chiudiamo anche questa parentesi con la colonna sonora di questi Euro 2012, perché dagli europei riportiamo invece le lancette indietro ai mondiali del 90, ne parleremo tra poco. Canzone a cambiare le regole del gioco. Ed eccoci, come vi anticipavo, dagli Europei 2012 la musica riporta indietro le lancette ai mondiali del 90. Perché? Perché stiamo ancora facendo i conti con l'eredità dei mondiali del 90, e non parlo di calcio. Alle 14.30 oggi inizierà la demolizione dell'ecomostro dei mondiali di calcio del 90 nel Parco Agricolo Sud di Milano. Molti di voi magari lo ricorderanno, un mega albergo costruito appunto per l'appuntamento mondiale di 22 anni fa, non è mai stato completato, da anni è in stato di totale abbandono, dopo 22 anni oggi verrà abbattuto. Io saluto il presidente di Legambiente Milano, Damiano Di Simine, buongiorno. Buongiorno a voi. Una lunga storia, 22 anni, come si è arrivati innanzitutto finalmente a questa decisione? Beh, bisogna dire che è un merito dell'attuale amministrazione, che ha stretto degli accordi con la proprietà dell'immobile, la Beni Stabili, che hanno permesso di addivenire, diciamo, alla demolizione di questo vero e proprio comune, nel senso che è un edificio che non è mai entrato in funzione, è rimasto uno scheletro vuoto. Per allora, 7 piani, volume complessivo 180.000 metri cubi di cemento, sì, è enorme. Sì, sono 180.000 metri cubi di cemento in un'area che oggi è a tutti gli effetti un parco agricolo regionale. Quindi è una presenza incombente ed è anche un modo con cui Milano dà il benvenuto ai visitatori che arrivano da sud, dalla tangenziale, e si immettono nella città. Quindi diciamo che a Milano si cerca di farle notare i propri pregi ma anche i propri difetti. Ed è l'eredità in qualche modo più brutta di quei mondiali d'Italia 90 di cui molto si è parlato. Oggi ci sarà l'abbattimento, non vedremo come fu ad esempio Punta Perotti, un grande boato, un edificio che crolla, si è deciso per un altro sistema, giusto? Sì, ci sono problemi legati per esempio alla presenza di amianto nelle strutture che sconsigliano fortemente di usare l'esplosivo, quindi verrà fatta una demolizione in condizioni di maggior sicurezza, verrà giù pezzo per pezzo quello che è appunto un simbolo di una Milano pre-Tangentopoli in cui il cemento veniva su, che era un piacere, diciamo così. Un braccio meccanico, 20 metri, una pinza da demolizione, ne staccheranno proprio pezzo per pezzo? Sì, ci vorranno circa 4 mesi, ci dicono, per completare l'intero abbattimento, e ciò che è più bello è che poi alla fine non sorgeranno altre strutture. L'area verrà restituita all'uso agricolo e anche agli aspetti naturalistici, perché ovviamente l'ecomostro è stato messo in uno degli ambienti più naturali, più rilevanti di Milano, in un'ansa del fiume Lambro. Quindi ricostruire un paesaggio fluviale in una città che ha nascosto, cancellato, distrutto i propri fiumi può essere una grande operazione di paesaggio di cui andare molto fieri, anche se non ci nascondiamo che mentre si abbatte un ecomostro altri qua e là ne stanno sorgendo, perché sono passati 25 anni, ma allora si preparavano i mondiali Italia 90, oggi si parla invece di un altro grande evento, l'Expo 2015. E naturalmente anche su questo la vigilanza dovrà essere alta. Mega albergo, però, tornando al oggi, diciamo 14:30 inizia questa operazione, doveva essere un simbolo di quei mondiali, diciamo che 22 anni dopo è in qualche modo un simbolo diverso di un riappropriarsi di quel territorio. È proprio quello che speriamo, ma speriamo che non sia soltanto una guerra simbolica, ma che sia anche un vero e proprio cambiamento di registro. È ora di finirla, di costruire immobili per circondare vuoti di cemento. Abbiamo bisogno di un settore delle costruzioni che si dedica realmente al soddisfacimento dei bisogni della città, della residenza, delle infrastrutture veramente necessarie, non di quelle che sono esclusivamente funzionali a sfruttare una scadenza di un grande evento. 14:30 l'appuntamento. Addio al ecomostro dei mondiali di calcio Italia 90 per Milano. Grazie allora al presidente Lega Ambiente di Milano, Damiano Di Simine, per essere stato con noi questa mattina. Buona giornata, buon lunedì a tutti. Da Anna Migliorati, Carmelo Lauricelli in regia, Diego Rovelli, grazie per la collaborazione. Tra poco ci risentiamo con GR24.